Loro non sapevano nemmeno come fosse nata l'abitudine di dare nomignoli in biblioteca. Però mi hanno confessato che ne avevano già uno anche per me. Paperoga. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Le 16:08 minuti, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Ho smesso di ridere dei soprannomi altrui il giorno in cui, entrando dalla sorella di mia nonna, le tante signore presenti mi guardarono e dissero: «Ma guarda che bella Boasinò!» Ci sono rimasta malissimo. Per chi non lo sapesse, dicesi Boassa, in dialetto diminutivo Boasinò, lo sterco della mucca. Spiego, il mio bisnonno era spazzino, puliva le strade dalle cacche dei cavalli e degli asini. Tutto il ramo della famiglia che parte da lui, quindi, al paese, è detto i Boassi. Me compresa. Ecco, oggi quando ho letto questo messaggio che mi ha scritto Paola, ho pensato che i soprannomi sono sicuramente divertenti, sono identificativi, che hanno sicuramente una fonte di verità e un fondo di verità. Ma i soprannomi sono soprattutto cattivi. I soprannomi sono sdoganati, no? Sono leggeri. Accettati un po' come le parolacce in dialetto stretto, quelle che sono folcloristiche, e trasformano la persona in un personaggio. Però hanno la stessa disinibita e diretta cattiveria che hanno le verità dei bambini, quelli che alle elementari sono capaci di segnare la vita di una persona per sempre, quelli che danno del grasso a chi è grasso, del mostro a chi è mostro, o dell'ignorante a chi lo è. Nessuno, passata la terza media, direbbe mai in faccia ad una persona che frequenta tutti i giorni cose tipo: «Stai zitto tu, che sei un ciccione schifoso», a meno che non siano tanto così da una rissa. Però se il tutto è tradotto e riassunto in un nomignolo, in una storpiatura del cognome o più in generale in un soprannome, allora vale tutto. Ci sono discendenti di famiglie che si portano dietro nomi che non li riguardano minimamente, che però hanno a che fare con qualche membro della propria famiglia che secoli fa ha detto o fatto certe cose che lo hanno marchiato per sempre. Ma anche i soprannomi che arrivano da bambini o da ragazzi o in ufficio sono delle verità nascoste in una definizione, che spesso sono più cattive di qualsiasi spiegazione. Al mio paese il soprannome della mia famiglia è Barageux, che credo sia il nome di un vino francese che è stato dato al padre di mio nonno, che aveva un bar e a cui piaceva parecchio bere, credo. Da lì in giù, un po' tutti i componenti della mia famiglia, della famiglia Caccia, hanno il nome di quel vino e molti hanno tenuto fede a questa promessa, gustandolo come si deve. Per un astemio come me, però, quel soprannome calza un po' come una scarpa sinistra su un piede destro. Ecco, oggi voglio fare una panoramica di soprannomi. Non nomignoli, non pseudonimi, non diminutivi, solo e semplicemente soprannomi. Di chiunque, da ogni parte d'Italia. Soprannomi. 800240024 per chiamare in diretta, 349-238-6666 per mandare sms in diretta. Tra l'altro, questa cosa del soprannome che in molti paesi rimane, anche non è solo una roba del nord o del sud, perché anche a Tiziano Bonini mi raccontava che la sua famiglia, la famiglia di sua madre ha un soprannome che è Beccafico, giusto? Che non so cosa sia, so cosa sono le sarde a Beccafico, ma non so cosa sia il Beccafico. Ma non so nemmeno che cosa sia esattamente il Barageux. Prima cercavo di capire se è un vino, ma non credo che sia un vino. Forse è la storpiatura del nome di un vino. La prima roba che mi viene in mente e di cui si parla a casa è che forse è la storpiatura di Beaujolais, che è un nome di un vino francese. Non lo so. Insomma, se qualcuno lo sa, se esiste il Barageux, 349-238-6666, svegliamo l'arcano anche a tutta la famiglia Caccia. Solo soprannomi. Soprannomi che vi hanno appioppato, con cui vi chiamano quotidianamente. Soprannomi in cui comunque vi conoscete, perché qualcosa di voi lo raccontano ed è un modo per essere raccontati da fuori. 800240024. Ve ne faccio un veloce esempio dei messaggi che sono arrivati su Facebook a proposito dei soprannomi. Gabriele, Bubu, ma credo che sia così perché si chiama Orsi di cognome, però. Alessandro, Sandrino, vabbè, Sandrino non vale, è un diminutivo. Roberta, Bu. Manuela, invece di Manu, Piedu. Questa è proprio brutta, eh? Mary Cookie. Marco, all'elementare era un bambino molto esile, mi chiamavano Gagarello Sprint. Però poi, cioè, di solito il soprannome è quello con cui viene appellato anche, non è che per chiamarti oh Gagarello Sprint, insomma, mi sembra o diventa Gaga o diventa Sprint. Emanuele, nessuno mi chiama Emanuele. I miei amici dell'università mi chiamavano Gazzet, perché il primo anno ero l'unico che si presentava ogni giorno con La Repubblica e Gazzetta. E dato che La Repubblica non era un gran nome, iniziarono a chiamarmi Gazzetta, che poi divenne Gazzet. Non fa una grinza. Ce n'era un altro anche divertente. Alle scuole medie i miei compagni mi chiamavano Ossario, questa Michela, perché ero molto magra. Dicevano che mio padre mi lanciava in giardino e diceva al cane: vai a prendere l'osso. Luisa invece, di recente, quello che preferisco è quello che mi ha affibbiato un collega di mio marito, Fantaghirò. Ecco, io Luisa non la conosco se non per qualche messaggio, però già attraverso questo soprannome ho capito qualcosa di lei. 800240024 349-238-6666. Se avete un soprannome, la roba più triste sono quelli che si danno i soprannomi. È triste perché di solito non vi rappresenta, è perché vuol dire che nessuno ha avuto tanta attenzione per voi da darvi un soprannome. Ecco, se siete tra quelli, vi prego, non chiamatemi. Sono giorni difficili, mi deprimo facilmente con le vostre telefonate. 800240024. A me è successo in questi giorni, in biblioteca, che il soprannome me l'hanno appioppato. Oggi è arrivata una cartolina da Valencia. Novità da Giovanni. Sulla cartolina ci sono barche a vela gigantesche. Sono quelle dell'America's Cup del 2007. Quella che ha vinto Alinghi. Quella che secondo me avrebbero dovuto fare in Sardegna. È una bella immagine. Dà l'idea di una corsa verso un obiettivo. Giovanni è lì con la sua compagna e cercano di avere un bambino. Qui in biblioteca non se ne parla tanto, un po' per scaramanzia. Però siamo tutti felici di quella foto, perché sembra che abbia un significato. Significa che loro sono fiduciosi e hanno le vele al vento. Sul retro c'è scritto: qui tutto bene, aspettiamo il giorno in cui ci chiamino. Bella frase, è una frase semplice, precisa. E poi sotto c'è la firma: Pluto. Ecco, che io lo sapevo anche, che pure Giovanni aveva un soprannome da cartone animato come tutti qui, Pluto. Dunque Pluto è l'unico animale della Disney che non parla. Cioè, tutti i personaggi di quel giro lì sono bestie, ovviamente: papere, mucche, topi, cavalli e cani. Eppure, mentre gli altri si tuffano nell'oro, guidano le macchine, preparano torte, studiano libri, fanno gli investigatori, Pluto è un cane che rimane al guinzaglio di un topo. Cammina a quattro zampe e per fare la pipì non va in bagno. Però non mi scandalizzo, i fumetti sono come le leggende, servono a dire le cose che non si possono dire. Servono a sorprenderti. Non li devi capire. E bravo Pluto. Fammi appendere la tua cartolina sulla bacheca della biblioteca, che adesso è piena solo di volantini di corsa di yoga e di pilates per le schiene doloranti di questa generazione. È solo che questa cosa dei soprannomi io la voglio risolvere. E allora sono andato da Ciccio e da Nonna Papera e ho chiesto come mai tutto questo Disney nell'aria. Loro non sapevano nemmeno come fosse nata l'abitudine di dare nomignoli in biblioteca. Però mi hanno confessato che ne avevano uno già anche per me. Paperoga. Ecco come mi chiamano. Paperoga è un tizio che sa un sacco di cose, ma non è come Pico de Paperis, che è veramente colto. No, Paperoga sa di manuali che si vendono in edicola. Ha letto per corrispondenza. È un autodidatta, un po' confusionario. Uno buffo e un po' scemo, ma sempre curioso. Un giuggiolone, una specie di Pippo però all'ennesima potenza, arruffato e ingenuo. Praticamente un cretino. Ho sorriso perché forse ci hanno visto giusto. Loro si sono un pochettino scusati perché Paperoga a volte sembra ridicolo e avevano paura che me la fossi presa. Ma non era il caso. Loro, Ciccio e Nonna Papera, sono un'oca deficiente e sua zia, quindi non avevano tanto da dire. Ho colto l'ironia e mi sono messo sul mio profilo Facebook la foto di Paperoga. Tax collector in a wax museum, child molester or son of Sam. Hey hey, what are you giving away? Grandma Shirley and Papa, Grandma Shirley and Papa. Windows of a nightmare, windows of a night. I wish I was a father and I had another family like Sticky Boy Ricky. Verso le 11 è arrivato il momento della pausa lunga con lettura approfondita della Gazza, è arrivata Natalie. È stupefacente come quando vedi una persona in un posto diverso da dove la vedi sempre, ti fa un effetto straniante. Cioè, è come se in un brutto film italiano apparisse all'improvviso Robert De Niro. C'è una roba che quando succede ti viene voglia di uscire e chiedere indietro i soldi. oppure di sperare che qualcuno ti svegli. In questo caso sono rimasto così sorpreso che quasi quasi non la salutavo. È entrata sorridendo, ma a quell'ora non doveva essere in giro, doveva essere al lavoro. Si vedeva che c'era qualcosa che non andava. Che bella sorpresa, le ho detto. L'ho presentata ai miei colleghi e siamo usciti sul prato a fare due passi. Appena fuori, si è messa a piangere, con dei singhiozzi che a momenti ci rimaneva. Tra le lacrime mi ha detto che aveva mollato il lavoro, non ce la faceva più. Io ero felice, dietro la mia maschera seria, anche se lei era così triste. Che un po' spiaceva, ma lasciare quel lavoro era la cosa giusta da fare. Non era quello per lei. La sfruttavano e basta. La capivo e la consolavo abbracciandola stretta, e lei piangeva. Poi, come se non avesse detto tutto, si è asciugata gli occhi e con la vergogna in volto mi ha confessato che Maurizio, lo ricordate Maurizio? Il presidente della ONG che si occupa di alimentazione nei paesi in via di sviluppo e soprattutto in Africa, quella per cui Natalie lavorava, ci ha provato. Maurizio ci ha provato con lei ieri sera, subito dopo una di quelle riunioni importantissime dove si salvano milioni di vite. Succedono delle cose strane nel cuore di un uomo e non le conosci finché non ti capitano. Quando ho sentito questa notizia da Natalie, non mi sono indignato con lui e non mi sono nemmeno dispiaciuto per lei. Mi vergogno a confessare cosa ho provato un po', però siccome è da settembre che in un modo o nell'altro cerco di dire la verità, anche se non sempre, oggi lo farò. Quando mi ha detto che lui ci aveva provato, io mi sono sentito tradito. Tradito dalla mia fidanzata. Non so perché, però me li sono immaginati complici, pieni di sorrisi, di parole, talmente vicini da consentire quasi l'idea di un bacio. Un bacio che lei ha respinto, ovviamente, ma pur sempre un bacio, che forse un po' è arrivato. Lui sentiva che poteva provarci. Non l'avrebbe fatto con la prima che passava per la strada, lo ha fatto con lei. E lo ha fatto con lei non perché lei è la donna più bella del mondo, ma perché era di fianco a lui e rideva con lui. Lo so, è sbagliato forse, però io mi sento così. E Natalie si è sentita in colpa. Cioè, non aveva fatto niente, eppure, siccome un uomo aveva cercato di baciarla, tutti e due sentivamo che era successo qualcosa che ci avrebbe cambiato, almeno di un po', almeno di tanto così. Lei non si spiegava come fosse potuto accadere, ed è per questo che l'ama ancora. Perché non capisce niente degli uomini. Perché è una donna, e io non capisco niente di lei. Misteriosa l'attrazione che c'è tra gli opposti. Ecco, forse questo ci aiuterà a crescere, forse ci renderà più forti, non lo so. Quello che è certo è che Maurizio si è rivelato esattamente come sembrava. E spero di non incontrarlo mai, per lui e per me. Stasera ci guardiamo un film, mi ha chiesto Natalie. E gli ho risposto di sì, ma di cartoni animati però, perché ho voglia di favole. And I held my tongue as she told me, son, fear is the heart of love. So I never went back. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. Partiamo con la spiegazione di Barrageux. Il Barrageux è un vino che si produceva un tempo nelle zone del Cugionese e che gli amici del museo coltivano ancora in una piccola vigna con le stesse caratteristiche di allora. Quindi ho fatto una piccola ricerca e ho scoperto che il Barrageux era il vino che i contadini del paese producevano mescolando l'uva Clinto con quella americana. Il nome deriva da Baraggia, che significa terreno argilloso. Grazie mille. 349-238-6666. Ciao Matteo, sono Enrico da Sant'Antioco, Sardegna, sud-ovest. Mio nonno aveva preso il soprannome di Candiliu, o Candiliu, perché quando passava il signore che vendeva le candele agli inizi del secolo scorso, urlava candele, candelotti, e mio nonno da dietro gli angoli delle finestre gli tirava le pietre. Ciao Federico, a me quelli che mi chiamano sbagliando il nome mi piacciono troppo. Proprio li adoro. Ciao Federico, alle superiori, siccome ero il più basso della classe, sono stato appellato Nano. Poi cresciuto, fidanzato e sposato, io e mia moglie siamo diventati Nano e Biancaneve. Ciao Matteo, mi chiamavano, e qualcuno ancora adesso, Cibalgina, perché ero piccolino. Il bello è che mi chiamavano così anche quelli più esili di me. E poi ce n'è un altro. C'è una persona che conosco, la chiamano Pupo di gomma, perché quando era piccolo, cadendo molto rovinosamente, si è alzato gridando "Non mi sono fatto niente!" ed è stato nominato da quel momento Pupo di gomma. Uno cattivo, Benedetta mi scrive due soprannomi, uno cattivo e uno buffo. Quello cattivo è lo scoperchiato, perché era un tizio che era stato operato alla testa, e quello buffo era Mirastelle, perché camminava sempre a testa in su. Poi oggi mi è arrivato un messaggio che non spiega esattamente da dove arrivano i soprannomi e perché, però mi scrive così: Marco, al mio paese i soprannomi li hanno messi in un museo e lo hanno fatto disegnando tanti piccoli quadri che il visitatore deve risolvere come in una charade. Io ci lavoravo come guida e tra i soprannomi buffi e terribili e anche a luci rosse la cosa bella era far capire al visitatore che il soprannome non te lo scegli ma te lo appioppano ed il più delle volte non è una cosa di cui andare fieri. E allora abbiamo sentito esattamente che cosa faceva Marco. Pronto Marco? Ciao Matteo, ciao. Ciao, grazie per aver interrotto il lavoro, che so che stavi lavorando. Che lavoro fai? Sono un tecnico informatico. Quindi stai al computer più o meno? Sì, adesso lo buzzino. Ok, quindi facciamo in fretta. Marco, senti, raccontami che tipo di museo è e che cosa facevi tu come guida in questo museo. Allora, io ero una guida improvvisata di questo museo che si chiama Etnomuseo, che è un museo etnografico del mio paese, dove praticamente... Qual è il tuo paese, Marco, scusami? Rocca Gorga, in provincia di Latina. Rocca Gorga, ok. Sì, il curatore ha pensato bene di mettere il paese in un museo, praticamente, un museo un po' sui generis, non ci sono teche, non ci sono reperti, ci sono, diciamo, le scene di vita del paese, tra cui non era possibile non mettere i soprannomi, perché... Tutti, o più o meno tutti, hanno un soprannome da me. Te ne ricordi qualcuno? Ma sono soprannomi di famiglie, come nel mio caso, oppure soprannomi personali? Guarda, alla fine designano, io dico sempre, una stirpe, perché praticamente quando ti appioppano un soprannome non te lo togli più. Spesso ci sono bambini con soprannomi, ma non sanno nemmeno la loro origine, perché magari era il bisnonno che ha preso questo soprannome in un modo magari strano. Fammi un esempio di qualcuno di questi soprannomi. Guarda, tipo ce n'è uno, si chiama lo Scartaccio, perché questo era bravissimo, in salita con la bicicletta e scartava tutti praticamente. Cioè che li staccava? Li staccava tutti, poi vabbè, cioè il Becchino. Vabbè, il Becchino è facile. Me ne ha scritto uno che si chiama Pizzicalluva. Pizzicalluva, perché praticamente quando si fa la vendemmia, invece di cogliere l'uva e di metterla nel recipiente... piano piano. Senti Marco, di tutto quello che mi hai scritto, e poi ti saluto, la parte finale ho trovata quella più interessante. Tu mi hai scritto: il soprannome è uguale a controllo sociale. Sì, controllo sociale. Tu poi qualcuno nella vita magari diventi importante, ma poi quando torni al paese, che so, sempre Cettola sei, se c'è quel soprannome, quello ti rimane, quindi è un marchio a fuoco. Marco, ti faccio tornare al lavoro, grazie mille, buona giornata. Grazie a te, ciao. Ciao, adesso la borsa e poi io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. E oggi nella foto siamo in un teatro, anzi, meglio, siamo in scena proprio, siamo sul palco di un teatro. C'è un'attrice o una cantante, forse, non lo so, forse è un'opera lirica o se è uno spettacolo di prosa, che essendo su un palco è particolarmente contrita. Sta pensando, sta parlando, sta dicendo qualcosa. È chinata per terra, ha su un abito da sposa, è un abito bianco con un bel décolleté in mostra, e ci sono due gabbie alle sue spalle, una è vuota e un'altra gabbia invece è piena di un velo da sposa, quindi il velo è chiuso all'interno della gabbia. C'è un'altra gabbia anche davanti, due gabbie davanti, così a naso credo che si parli di donne, di matrimonio e di gabbie. Valerio Spagnoli, 33 anni, sono fotografo di scena di una compagnia teatrale tutta femminile, Le Stagnotte. Nello spettacolo Buio di mani, una donna parla delle gabbie quotidiane in cui viene rinchiusa dalle violenze domestiche. Teatro Verdi, Fiorenzuola, Piacenza, io sono qui. Quando si dice che il teatro comunica più di qualsiasi altro messaggio, una donna e delle gabbie, matrimonio e costrizioni. 349-238-6666 800-24-0024. Visto che si parla di soprannomi e ci sono tante telefonate, è inutile dilungarci, per cui quando mi rispondete mi dite che soprannome avete e ci salutiamo. Però prima ci sono un paio di messaggi. A questo non ci credo fino a che non lo vedo. Nell'elenco telefonico di Chioggia sono tutti Boscolo, e per distinguere le famiglie sono scritti i soprannomi dei cognomi. sull'elenco telefonico, Gaetano, tu me lo assicuri. Io ho saputo da un SMS inviatomi per errore, perché era indirizzato a un'altra persona, che il mio soprannome era Rommel. Mi ha aiutato a cambiare atteggiamento con le persone che lavoravano con me. Mi ha fatto un po' male, però, lo ammetto. Ciao Emanuele. Ciao Rommel. Un mio amico, figlio di un importante politico nazionale, soprannominato Chivas, da Chivas Regal. La leggenda narra che un Natale qualcuno portò una bottiglia del whisky come regalo per il padre, mentre lui era a casa da solo e aveva circa 12 anni. La finì completamente e finì pure al pronto soccorso. Grande Chivas. Andiamo alle telefonate però, una dietro l'altra. Cominciamo da Piero, provincia di Massa Carrara. Pronto? Pronto Matteo, buonasera. Ciao Piero, buonasera, sei in macchina? Sì, sono in macchina. Sembri in una cava però, da come ti sentiamo. Qual è il tuo soprannome? Prego. Pronto? Il soprannome non è mio, è un soprannome del mio paese. Sì? Montiglioso. Io ho trovato in un libretto scritto da un certo abate Bartolomeo Bertocchi nella seconda metà del 1700, sì, un riferimento a un oste di una frazione di Montignoso, tale Lino Giorgini, detto El Giambò. El Giambò. La cosa curiosa è che io ho conosciuto Lino Giorgini, detto El Giambò, ho conosciuto suo figlio e sono amico di suo nipote. Ok, scusami, fammi capire una cosa Piero, però il paese ha questo soprannome o la cittadinanza? La famiglia, ok, ok. Ti ringrazio molto Piero, buona giornata. Il cognome rimane nel tempo. Speriamo per sempre. Ti sentiamo malissimo, ti salutiamo. Piero, grazie mille, ciao. Andiamo da Davide, pronto? Pronto, ciao, buonasera Matteo. Ciao, buonasera a te, qual è il tuo soprannome? Il mio effettivamente non ho mai avuto uno specifico, però ne ho messo uno tanto tempo fa ad un ragazzo all'età di 7 anni e che gli è rimasto purtroppo tale fino ad oggi. Il soprannome era Teseo. Ma gliel'hai dato tu? Sì, gliel'ho dato io, non mi ricordo nemmeno per quale motivo, perché lui si chiama Enzo, però che saluto da lì tantissimo, tra l'altro, evidentemente chissà cosa mi frullava per la testa. Quindi tu appartieni alla categoria che dà i soprannomi, non quelle che si prende. Sì, effettivamente, alla categoria di quelli mascalzoni. Davide, diciamo. Grazie mille, buona giornata. Grazie a te, ciao. Ciao, alla prossima. Andiamo a Torino da Massimo, pronto? Ciao. Ciao Massimo. La mia famiglia e io in particolare siamo soprannominati gli Stunà ormai da 4 generazioni, perché il mio bisnonno andò a fare un provino alla Scala a Milano e da allora, perché cantava bene, a noi ci è andato lo stranom in Monferrato, si dice così, esattamente l'opposto. Stunà. Grazie Massimo, buona giornata. Ciao. Nel mio paese il negoziante che vende le biciclette è soprannominato Gocciolone. Era così anche per il padre e per il nonno, e questo per via di una rinite allergica ereditaria. Albe da Bientina. Andiamo da Simona, da Padova. Pronto Simona? Ciao. Io ho preso il mio soprannome perché mio figlio, che ha 8 anni, ha cominciato 3 anni fa a giocare a rugby. La sua prima partita l'ha fatta in campo tenendo le mani in tasca e da quel giorno è tasche. Scusa, da quel giorno è tasche? Tasche, sì, lui è tasche, era bellissimo col caschetto biondo e le mani in tasca, tutti si accapigliavano e lui sembrava lì proprio per sbaglio. Quindi tu sei l'unico caso di persona che non lo eredita dall'alto ma dal basso il soprannome. Dal basso, sì, perché dopo al campo io mi ostinavo a chiamarlo Alessandro. Nessuno sapeva chi era quando chiedevo di Alessandro, nessuno sapeva, quando dicevo ma sono la mamma di Tasche, ma Tasche è lì che sta giocando là in fondo. E quindi a quel punto noi siamo la famiglia Tasche. Guarda, però... è un'immagine bellissima quella del bambino in mezzo al campo di rugby con le mani in tasca, della serie non me ne frega niente, portatemi via di qui. Sì, lui aveva proprio quell'espressione là e l'allenatore continuava a urlare. Forse giocare tipo a calcio o a tennis, come la vedi Simona? Ecco, a calcio la mano in tasca era più difficile, a tennis sarebbe stata drammatica. Salutami Tasche Simona, buona giornata, ciao, grazie. Andiamo a Roma da Vittorio, pronto? Ciao Matteo. Ciao Vittorio, come stai? Bene, tutto a posto. Come ti chiamano? Quadrato. Perché? Perché sono tanto alto per quanto sono largo. Quanto pesi? 110. E quanto sei alto? 1,75. Ma scusami, ma da quanto ti chiamano? Sei sempre stato così? Da quando avevo 20 anni, sì, perché gioco a rugby e a rugby mi hanno messo questo soprannome, il mister. Ma quindi, scusa, giocando a rugby si usano tantissimo i soprannomi, mi sembra di capire. Quasi tutti i rugbisti hanno il soprannome. Che ruolo giochi? Avanti, pilone. Pilone, ovviamente, se sei un quadrato non potresti essere altro. Vittorio, grazie mille. Ultimamente sto ingrassando un po', allora stanno pensando di chiamarmi Cubo. Ecco, bravo, riguardati. Ciao, grazie, buona giornata. Ciao. I soprannomi: mio padre era il Granduca, i suoi amici di barca Capitano, Montecuccoli, Borletti, Grossista Rifolpi, Cogo, Notaio Atlantico e ce ne sono altri. Andiamo da Pierluigi invece, da Modena. Pronto Pierluigi? Ciao, sono Pierluigi da un paese vicino a Modena. Ciao, però ti chiamano? Io mi chiamano Poffi. Perché? Non so di preciso il motivo, comunque ho due figli, tutti e due hanno lo stesso cognome. Ma il soprannome che ti volevo spiegare io è un mio amico che lo chiamano, scusi il termine, Guzza l'Orba. So, guarda, per il termine non mi sconvolge fino a che non me lo traduci probabilmente. Era uno che gli piacevano le donne da giovane, molto. E allora lui, qui da noi, per uno che va a donne, dicono che va... Che guzza. Va bene, Pierluigi, ti ringrazio. Scusa, ma figurati, è un piacere. Guarda, continua a chiedermi scusa del termine, ma a me sembra assolutamente innocente. Ciao, grazie. Ciao. Andiamo da Matteo, della provincia di Bergamo. Ciao Matteo, perché ti chiamano il cardinale? Non è per la mia vocazione di sicuro, è un soprannome che mi ha dato recentemente il mio carissimo amico Mirko Savoldelli. Mi chiamano il cardinale perché guardando da sopra la mia testa... Sai com'è? Mancano un c'è po' la di capelli chierica. Ma grazie mille Matteo, grazie. Sentiamo... Ciao Matteo. Ciao, grazie. L'ultima telefonata ce la facciamo? Sì, andiamo a Valenza da Marco. Pronto? Marco, hai lo stesso soprannome del sindaco, dell'ex sindaco di Bologna? Perché abbiamo qualcosa in comune. Cioè, ti chiamano il cinese? Sì, mi chiamavano il cinese per il taglio degli occhi, dalle medie fino all'ultimo anno che ho giocato a pallone, perché molti dei miei compagni di squadra eravamo anche compagni di squadra. Marco, grazie mille, ti auguro una buona giornata. Grazie a te. Ciao, grazie. Ciao. Ce ne sarebbero altre, però non facciamo in tempo, perché è arrivato il momento di continuare la storia di Luca. Ve lo ricordate, Luca, l'ascoltatore, che mi scrive praticamente un pezzo della sua storia ogni settimana. Questo è il capitolo 6. Caro Matteo, ieri finalmente è arrivato il sole. Non che qui dispersi nella pianura padana non lo vediamo, ma dopo giorni di nebbia ininterrotta i primi raggi di sole diventano qualcosa da ricordare. Ho l'ufficio immerso nella campagna. Qui ci sono due laghetti artificiali, tutto intorno è campi e qualche bosco. È uno dei momenti della stagione più belli. Il sole comincia ad essere caldo in alcune ore della giornata. Tra pochi giorni anche il freddo del mattino se ne sarà andato. Ci spoglieremo dei giubbetti pesanti e dei maglioni di lana. I primi colori cominceranno a coprire il territorio. È un po' come un pittore stanco. Dipinge il paesaggio con calma. Prima un po' di verde, leggero, nei campi. Poi appena accennato, sulle piante. Dopodiché, dopo un piccolo riposo, riprende con colori più forti, magari qualche giallo e rosso. E infine completa il paesaggio riempiendolo di luce e di colori. Tra qualche giorno riprenderò anche le mie passeggiate durante l'ora di pranzo, intorno ai due laghetti. Scatterò qualche foto e mi siederò lungo il ciglio della strada di campagna, ad ascoltare la natura. Ecco, io sono qui. Luca. Te lo confermo, Matteo, a Chioggia lo scrivono anche sui documenti d'identità e patenti, i soprannomi. Ciao, Dennis da Padova. Tutti gli sms con i soprannomi oggi li pubblichiamo con un post sul profilo Facebook. Prima di chiudere però vorrei dare un appuntamento a tutti quelli che vivono a Milano, a Torino o a Palermo, perché venerdì 25 febbraio, sperando che ci sia una bella giornata, c'è l'occasione per riunirsi all'Una in Piazza Duomo a Milano, all'Una in Piazza Castello a Torino, all'Una al Foro Italico a Palermo, perché quando c'è una bella giornata non è sempre una buona notizia. Visto che l'aria in questa città è respirabile ormai da più di un mese, probabilmente quasi due, c'è un'organizzazione che ha a che fare con esterni che organizza quello che hanno chiamato un flash smog, per cui c'è bisogno di gente che si riunisca in Piazza Castello a Milano per creare un disegno che visto dall'alto componga la scritta HELP. Venerdì 25 febbraio all'Una, Piazza Duomo a Milano, Piazza Castello a Torino, Foro Italico a Palermo. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?